Boys and girls, your attention please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa e un saluto da Drago. Però non se ne può più. Ma cosa? Dell'infantilismo, dell'asilo, insomma mi sta ammorbando sta cosa. Io voglio tornare alle mie abitudini adulte. Capirà. Vivere in sto paese dominato dall'infantilismo mi sta rendendo un cretino. Ma scusa, noi siamo pagati per questo, abbiamo una mission, non puoi lamentarti della nostra mission possible. Parli? Poi mission. Comunque è meglio, guarda, arrendersi e andare all'estero. Eh sì, e dove? Dove? Che ne so, in Francia. Ma no, in Francia adesso c'è Sarkozy, lui gli zingari come noi li caccia via, quindi lascia i zingari. Vabbè, cosa dai. Cosa c'entriamo noi con sì, gli zingari? Artisti, pazzoidi, lui non li sopporta le persone come noi. Lui, che scusa, è il primo che ha sposato una cantante. Già. No, no, allora in Francia no, perché poi dobbiamo ascoltare i dischi di Carla Bruni per ragioni di Stato, quindi no. Vabbè, ma non importa adesso il dettaglio, andarcene via, Drago, via dall'Italia, anche solo a San Marino. Vabbè, va già buoni bene. Quelli, la Repubblica Immaginaria di San Marino. Lascia no, perché immaginaria? È una Repubblica autonoma da più di 1700 anni, quando in pratica c'erano ancora gli uomini primitivi. Sì, bravo, sul che... perché, sul per come San Marino sia una repubblica autonoma da 1700 anni, lasciamo volentieri la discussione agli storici e andiamo oltre. Andiamo oltre, cosa facciamo? Andiamo a casa tutti no, quanti? No, no, no, che però oltre? Possiamo almeno dire che è tutta la prosopopea di San Marino come repubblica autonoma dallo Stato italiano sta miseramente affondando e sta invece venendo a galla la verità. Ah, e quale sarebbe la verità? Che da quando la... crisi finanziaria... ha obbligato gli stati a fare chiarezza sui conti bancari all'estero e a San Marino è scoppiata la paranoia. Il segreto bancario old style non esiste più e queste povere banche sammarinesi sono sul lastrico. Prima dello scudo fiscale nelle banche di San Marino c'erano 14 miliardi di euro italiani, per così dire. E ora ne sono rimasti solo 9. 5 sono tornati in Italia e questo è solo un esempio. Quindi... è colpa del bambino ministro Tremonti, eh? È lui che gioca sporco. Beh, questa è la versione dei bambini sammarinesi. Ma sentiamo quello che dice il bambino ministro Tremonti. Bambino ministro Tremonti, da San Marino la accusano di giocare sporco. Lei cosa dice? Io non ho mai capito chi gioca con le figurine Panini. Io ho giocato con le figurine Panini, però non capisco perché un adulto debba continuare a giocare con le figurine Panini. Come al solito il ministro bambino Tremonti è elusivo, eh? Sì, figurine. Elusivo, però scusami, la domanda è com'è vivere davvero nella Repubblica di San Marino? Io me lo sono sempre chiesto. Guarda, per capire bene lo spirito di una nazione a volte basta analizzare le parole dell'inno nazionale. Oh antica Repubblica, onore a te virtuosa, generosa fidente, virtuosa, oh Repubblica. Ecco, nei due aggettivi generosa e fidente si possono riscontrare due tratti caratteristici della Repubblica di San Marino. La generosità, intesa non tanto come prontezza ad agire per solidarietà, quanto come prontezza ad accogliere capitali stranieri. Sull'aggettivo fidente non occorre sprecare troppe spiegazioni. A San Marino i capitali stranieri sono sempre stati in ottime mani, fino a poco tempo fa. Ma continuiamo. Oh Repubblica, vivi eterna, con la vita e gloria d'Italia. Qui si intuisce che le recenti inchieste non erano state previste, in quanto ci si augurava di vivere eternamente con i capitali in arrivo dall'Italia. Ma poi è andata male. Sì, perché qui in Italia c'è un bambino ministro che non scherza mica. Lui non gioca mica con le figurine Panini. Non capisco perché un adulto debba continuare a giocare con le figurine Panini. Voi parlate, parlate, parlate, con le voci pallose dei grandi, le parole noiose e annoiate, fanno schiuma sui piatti rotondi. E pensare che avevate detto che qui c'era da attendere poco. Non ho preso neanche un giornaletto, non ho preso neanche un videogioco. Guardo avanti a destra e a sinistra. Nella sala la noia fa un velo. Guardo fuori da una finestra i cartoni animati noiosi delle nuvole in cielo. E ora, bambini, ricreazione! Ciao, Gildo. Tutto a posto? No, tra l'altro volevo chiederti, mi hai portato i 50 euro? 50 euro! E 50 euro che mi devi? 50 euro che mi devi? Oh, bambino Albertino, con chi stai parlando? Io? No, no, niente, con nessuno. Come con nessuno? Stavi parlando da solo un attimo fa? Ma no! Zitto, Gildo! Zitto chi? Gildo? Chi è Gildo? Ma nessuno! Comunque adesso devo andare io, che devo passare in farmacia, che devo prendere il sieroantivipera. No, vabbè. Gildo, aspetta che se ne vadano, no? Stai dicendo? Alberto, sei molto agitato, oggi, antivipera. Cosa c'è? Siero antivipera, 50 euro. Chi è Gildo? Vabbè, è un mio amico. Ah, e dov'è? Qui, no? Ma dove? Perché, non lo vedete neanche voi? Ma chi? Gildo, il mio amichetto Gildo. No, veramente noi non vediamo nessuno. Bertaccini, ci sei solo tu? Ma no, Bertaccini, dai! E poi comunque qui c'è anche Gildo. Gildo, saluta Cappedrago, dai. Vabbè, è impazzito. No, oppure ha un amico immaginario. No, basta con questa storia dell'amico immaginario, Tutti a dire che Gildo non esiste. Ma chi lo dice? Mamma e papà? Mamma, papà, lo psicologo, lo psichiatra, lo psicoterapeuta. Tutti. Vabbè, allora se lo dicono tutti e lo diciamo anche io e Drago, allora sarà così, no? E allora perché io lo vedo? È qui? Ciao, Gildo. Vabbè, ma non c'è niente di strano, Lino Patruno. No, Lino Patruno, allora? No, ma non c'è niente di strano, Albertuccio, è normale avere un amico immaginario alla tua età, eh? Pensa che a San Marino hanno addirittura una repubblica immaginaria e sono molto più grandi di te, quindi non... Ma lo sentite che Gildo reagisce a quello che dite voi? Ah sì, Vabbè, dai, facciamo finta. Sì, sì, si vede che è un bravo bambino, intelligente, sì. Sì, sì, sarà anche bravo, però questo è scemo, No, come scemo? Detto intelligente, vabbè. Ma no, ripete sempre le ultime cose che dico io, vero Gildo? Vero Gildo? Sentito? No. No. Fidatevi di me, questo qui è proprio scemo, Vabbè, però scusa, non vorrei offendere Albertino, però se Gildo rappresenta un altro te stesso, no? Un doppio. Perché immaginario, Quindi se Gildo è scemo, allora vuol dire che anche tu, insomma, la mente che partorisce Gildo anche è un po' scema anche lei, insomma. Cioè insomma, tu sei un po' scemo. No, esatto. Ma cosa state dicendo? Non ma so, cosa c'entra? Drago, cioè, non so. È scemo, il mio amico Gildo è scemo, allora sono scemo anch'io. Vabbè, ma non immaginario, è un amico immaginario, capisci? Quindi è una proiezione di te stesso. Non esiste. Ma che immaginario? Esiste come? Allora, se non esiste, come mai mi deve 50 euro? Ma non lo so. Ma sei riuscito a farti estorcere 50 euro da un amico immaginario? 50 euro, vabbè, me li ha chiesti, un giorno me li ha chiesti, mi servivano? E li ho prestati, no? Sulla fiducia, sulla parola. Parola, quindi non ci hai ricevute niente? Ma no, ho ricevuto fra di noi una stretta di mano e via. La stretta di mano immaginaria? Con chi? Con chi l'hai fatta? Poi intanto le 50 euro sono uscite dal mio portafoglio, E allora? E dove sono finite? E beh, quello che vuole sapere anch'io. Gildo, allora c'è 50 euro? No, prima non hai risposto. Me l'hai portato o no? Me le devi? No, me le devi tu. 50 euro. Ho capito, 50 euro. Oh, l'altro giorno mi hai chiesto 50 euro. Te li ho dati? Non ho neanche chiesto per cosa ti servivano? Per discrezione? Allora, riportami, no? 50 euro. Ecco. Questi. E cosa sono questi? Ma cos'è sta roba qua? Ma questa è carta igienica. Ma no, tu mi devi dare 50 euro vere. Questa roba qui cos'è? 50 euro. Immaginari. E immaginari? Immaginari. E ora, bambini, e tutti a casa. Vabbè. Cosa? Te l'avevo detto che non ci lasciano passare. Ma vedrai che adesso passiamo, dai. Bello è che tu sembra che ci credi davvero. No, ma ci credo davvero, sei Drago, Drago. Non è possibile che prima o poi non si apra un varco. Prima un varco. O poi passiamo, dai. Secondo me qui bisogna trovare una soluzione. L'unica sarebbe avere una bella ragazza qui con noi e vedi che si fermano subito. Chiediamo a Suor Dentone. Sì, così ci arrotano di sicuro. Però hai ragione, scusa, Vieni un po' qua. Cosa? Mettiti qua, rossetto. Ma no. La cipria, aspetta, mettiti le calze a rete. Queste qua, te le ho portate apposta. Ma cosa vuoi fare, dai? Qua, le scarpe con i tacchi, queste qua rosse. Oddio, ma come si cammina così? Vai, adesso sei molto attraente, Drago. Dai, adesso adesca gli automobilisti. Ma come faccio, K? Non sono capace. Non lo so, canta. Come accendi un fuoco e canti. Cosa canto? For der caserne, for der grossen tor. Ma che grossen tor? Di caserne, vabbè, non le so tanto bene le parole. No, vabbè, i casi a caso. Un programma di Cappedrago. torniamo domani. E mandate le vostre figurine Panini a chiedoasilo@radio24.it. Chiedo.